10 stelle le ho contate fino a qui. Solo al mondo una persona che mi odia chissà chi. Chissà come proprio adesso è tornata come mai. Fatti un calcolo perplesso, sono soldi no giammai. Ma la sua realtà è troppo piccola per provare sentimenti adatti a questa società. L'egoismo è il giusto marchio che fa felice questa donna, perché l'ultima notte insieme a te non c'è. Stavi sognando, torna in te, perché quando ti svegli male ti farà il letto vuoto che c'è, è troppo bello per me. L'ultima notte insieme a te non c'è. Stavi sognando, torna in te, perché quando ti svegli male ti farà il letto vuoto che c'è, è troppo bello per me. Volta adesso ho sbagliato, adesso sai, niente soldi né successo, per me conta ciò che vuoi. Credo non sia troppo tardi, sono tornata qui da te. Ho sbagliato per 2 anni, cosa vuoi che sia che c'è? Prendi carta e poi giù la penna e vai. Fissa bene sto momento perché l'ultimo vedrai. Scrivere non sai, presto orecchio a me ed ascolta ciò che dico, perché l'ultima notte insieme a te non c'è. Stavi sognando, torna in te, perché quando ti svegli male ti farà il letto vuoto che c'è, è troppo bello per me. L'ultima notte insieme a te non c'è. Stavi sognando, torna in te, perché quando ti svegli male ti farà il letto vuoto che c'è, è troppo bello per me.